invece non usato in maniera i farmaci non usati come manganello, cioè nel senso che per esempio a Porto Reale alle 8 di sera, alle 9 di sera, ma non mi ricordo bene gli orari, alle 8 di sera passa un tizio, dovrebbe essere un sanitario, che porta i farmaci come fosse una caramella, che non è legata a nessuna cura, a nessuna cosa, è curata a patto che le guardie carcerarie hanno bisogno di dormire la notte, non possono sentire i tossici che vengono da fuori, che hanno il problema della dipendenza, quindi gridano, stanno male, eccetera, e loro risolvono così. E quindi il farmaco è diventato da molti anni a questa parte uno strumento fondamentale, come diceva la compagna, di controllo. Ma in più è una cosa naturale per i carceri, perché quando ci parlano di carcere buone, carcere dove è possibile stare bene, dove ci raccontano una favola. Il carcere non recupera nessuno. E in questa fase il carcere si riempie di poveracci. Se leggete i dati che dal ministero, non danno i rivoluzionari, il ministero danno i dati su chi sta in carcere. Siamo tornati all'Ottocento, cioè siamo tornati quando nel carcere era pieno di persone povere, di sallattati, di tossici, di chi ha problemi di vario genere. Di povertà. I criminali veri sono pochissimi in carcere. A parte che non ci sono i famosi criminali legati al potere, là non ce n'è nemmeno uno, ma i criminali veri, legati alle famiglie, alla mafia, alla camorra, a queste strutture, ogni tanto sempre. Ce ne sono pochissimi, ragazzi. Infatti ce ne sono poveretti. Ultimamente, vado troppo lungo, per non vedo. Ultimamente si leggeva sui giornali che dopo 15 anni a Torino hanno arrestato un senza tetto, il quale 15 anni prima aveva commesso un reato di 10.000 lire, che dentro al supermercato aveva rubato per fame delle cose. Quello di Firenze, Firenze, 17 anni fa. 17 anni fa. Gli hanno fatto un processo, che lui non sapeva un cavolo, questo processo. In questi 15 anni è diventato come si dice, definitivo, e quindi questi sono andati a cercarlo e l'hanno trovato in una struttura di ricovero per poveri e l'hanno arrestato, come hanno fatto per una vecchia rom che aveva occupato una casetta, cioè nel senso in Italia il 70-80% è fatto da giovani tossici, da vecchi che fanno reati di sopravvivenza. Rada che si faceva nell'Ottocento. E quindi i farmaci sono uno strumento fondamentale perché per controllare questo ci vorrebbero squadrette umane con i manganelli, cose che fanno, in maniera continua. Perché se facciamo un esperimento, ci mettiamo 15 di noi dentro una stanza, diventiamo un problema. Per risolvere il problema non ci vuole qualcuno decidere prima, oppure usano i farmaci. Scusate, è stato lungo, ma un poco perché sto fatto dei farmaci. Molte persone, molte tra virgolette, molti, quando si parla di carcere, quando si dice molto, si parla di poche decine di persone, stanno ponendo questo problema da 20 anni, che nessuno pone. Cioè il problema dei manganelli e i farmaci sono sullo stesso livello e sono la faccia vera di cosa è un carcere, tutti i resti sono chiacchiere. Se hai un problema siamo live, vero? Se hai un problema spegniamo. Luigi, tu senti? Sì, noi ti sentiamo. Era anche per fare una prova per vedere se io sentivo te. Però digli se va bene che stiamo facendo. Gliel'ho detto che era in connessione, certo. Ovvio. Eh? Registrando. Chi sta registrando? Io ho fatto l'intervento di Raffaele, se lui per lui non è un problema io sto. Ah, ok. Mi dicono che stiamo registrando l'assemblea, per te è un problema Luigi? Ok, grazie. Sì, ok. E altri interventi? Sì. adesso pulisci. Vabbè, brevissimo. Vorrei ringraziare Luigi in primis, perché credo che è importante avere la forza di portare avanti tematiche che vengono invisibilizzate, e da, cioè solo chi è dentro le conosce, mentre noi che siamo fuori insomma ne vediamo poco la realtà. In realtà dei fatti concordo con Raffaele, cioè nel senso che lo strumento farmaco diventa più uno strumento, sempre più uno strumento repressivo all'interno di queste strutture, e quindi ci interrogherei stasera in maniera molto complicata di quale potrebbe essere le risorse. Ovviamente un progetto come le mattarelle potrebbe essere una risorsa nel senso di tirare fuori il problema, cioè nel senso parlarne con le persone che non sanno che i manganelli che spaccano la testa sono anche questi farmaci che inibiscono in tutte e per tutte le persone, che dormire 14 ore al giorno non è vita. Quindi per cui niente, dico continuiamo, e soprattutto ringrazio Luigi che nonostante tutto stasera è con noi e ci dà una grande forza per andare avanti in questa battaglia. Basta. Anche negli ambulatori, anche mai il sistema psichiatrico ormai causa certo. E non è un momento in cui gli studi epidemiologici ci danno un 40% della popolazione malata di mente nell'arco della propria vita, e da un lato la psichiatria, queste norme economico e di potere vorrebbe prendere in carico il 40% della popolazione mondiale. Dall'altro lato ha un comportamento che grazie anche ai farmaci che causano dipendenza cronicizza il disagio, produce invalidi. E quindi siamo in un impasse, perché la gente giustamente non vuole andare in cura psichiatrica perché ha paura dello stigma, perché meno male si fida del sistema psichiatrico, e da parte di psichiatri che sempre di più cercano di incamerare per prima possibile, anche per questioni di potere legate alla propria posizione. Lo stesso De Poche, ma per la maggiore è un guinzaglio chimico, è definito proprio dagli stessi psichiatri un guinzaglio chimico. Loro iniziano a somministrare questo antipsicotico che causa dipendenza, per cui ti tengono agganciato il sistema, questo sistema che si è chiuso o semichiuso con l'iniezione. Una volta che tu non vai a farti l'iniezione, hai una crisi di astinenza e ti raccatta del metodo del TSO. E una volta che iniziano ad darti il depot, l'iniezione entra il muscolo di neuroplegico, ormai sei imprigionato nel sistema e sei cronicizzato. Chiamano long acting, un guinzaglio lungo. Vengono a pensare con gli psicofarmaci. Anche i detenuti delle carceri che iniziano a prendere neuroplegici, una volta usciti vanno in crisi di astinenza e finiscono male, finiscono in psichiatria. Aspi, posso intervenire? Metti questo là. Sì. Volevo solo dare questa notizia, ma mi è rimasto allibito personalmente. Mo c'è un nuovo farmaco che sta sostituendo un poco l'eroina, sarebbe il famoso fentanyl. Ah, il fentanyl. Che addirittura in America poi si parla di 180 morti al giorno, sta arrivando in Italia. E sul problema di psico, questo è un psicofarmaco comunque, non diventa più un problema interno alle strutture, cioè si allarga pure all'esterno, cioè alle persone che sono le persone più povere, poi le persone che più hanno bisogno, le persone che non sanno più dove sbattere la testa, per sfuggire alla realtà incominciano a provare questa sostanza e ci rimangono subito dentro, perché è tremendo, dice che non so quante volte più forte della morfina. Io volevo invece riagganciarmi un attimo all'intervento di Luigi. Allora, io credo una cosa, che il capitalismo neoliberale è un sistema chiaramente abominevole, però nel suo funzionamento è perfetto, cioè nel senso che all'interno di questa cosa dei farmaci, che appunto si possono vedere i luoghi di reclusione come dei luoghi di sperimentazione del controllo sociale, ok? Però appunto questa sperimentazione del controllo sociale, dopodiché appunto, cioè la vera, diciamo, scommessa del capitalismo neoliberale è sperimentare questo controllo e poi vedere cosa succede fuori, no? Ok. Io penso che questo capitalismo neoliberale, che nel suo funzionamento è perfetto, per quanto riguarda gli psicofarmaci, funzioni così. Viviamo all'interno di un sistema che è fatto apposta per farci ammalare mentalmente, ok? Perché mentalmente, emozionalmente, insomma, poi chiaramente bisogna vedere la posizione di ogni persona sulla scacchiera, le intersezioni delle oppressioni, no? Però per capire a che livello e come. Però penso che viviamo appunto all'interno di un sistema che è fatto apposta per creare malessere psichico. Nel frattempo c'è questo sminuzzamento, questa polverizzazione delle comunità, questa polverizzazione dei legami che rende le persone sole e che quindi devono poi, si trovano poi a dover gestire il proprio malessere molto spesso solamente a livello psichiatrico, ok? O il malessere diventa tale per cui appunto la soluzione, che sia una soluzione scelta o che sia una soluzione di ricatto, no? Appunto, se non ti pigli i farmaci che ti prescrivo, poi scatta il TSO, finisci il repartino e quindi poi uno finisce per pigliarseli. Addirittura appunto negli ultimi anni assistiamo alla assolutamente sostituzione della terapia orale, dove le persone, diciamo, psichiatrizzate potevano avere un minimo di resistenza se prenderselo o meno, la sostituzione con il depot, dove tu vai, ti fanno un'iniezione, quindi nel senso non hai neanche più questa possibilità di scelta. Allo stesso tempo, diciamo che quelli che sono, quello che è il profitto di enormi colossi del capitalismo neoliberale, che è l'industria farmaceutica, all'interno di questa situazione è gigante. Conseguentemente stiamo parlando di un cerchio che si chiude, no? Il perché ci siano delle condizioni che provocano malessere psichico a livello epidemico, io sono fortemente un'attivista anti-psi, però il malessere psichico so cos'è, so che esiste, ok? Nelle mie politiche non viene negata l'esistenza del malessere psichico, perché in prima persona so cos'è. Conseguentemente poi appunto questa capitalizzazione degli effetti è quello che poi è il quid della questione, no? Allo stesso tempo si genera un controllo sociale totale, perché tu, non lo so, con le benzodiazepine, di cui sono stata grande consumatrice, non hai più emozioni, quindi puoi continuare a vivere con un compagno, nel mio caso una compagna violenta, puoi continuare tranquillamente a fare un lavoro che non ti piace, puoi continuare tranquillamente a rimanere all'interno di un ciclo produttivo, e se esci dal ciclo produttivo comunque da te viene tratto plusvalore lo stesso, perché entri in mano a cooperative, perché entri in mano a tutta una serie di, diciamo, a tutto un circuito, per cui anche se diventi improduttivo non importa, perché da te plusvalore viene tratto lo stesso. Quindi anche analizzare, no, la funzione del farmaco all'interno di tutto questo funzionamento, anche fuori dai sistemi, cioè dalle strutture di reclusione, non per togliere assolutamente il focus su quello che succede dentro, sarebbe importante. Ecco, finito. Perdonate, io con la mia ignoranza vorrei capire una cosa. Allora, quello che manca è l'ascolto. Ed è facile dare alle persone il farmaco e lo azzeriamo totalmente, perché è l'ascolto che manca, ma manca anche tra di noi, manca anche in un luogo di lavoro, anche quando ad esempio un esempio. Sono andata a pagare delle bollette stamattina, ho trovato delle difficoltà, io sono ipovedente, ho messo gli auricolari, però non è che mi hanno risolto al 100% questa cosa, ma lo sapevo già, un piccolissimo miglioramento l'ho avuto. E insomma, il gestaccio che ha fatto l'impiegato là, quando io ho detto può parlare un attimino più tranquillamente, insomma, Marianna lo avrebbe preso e lo avrebbe battuto con la testa sul... Però poi se avessi fatto un gesto del genere sono fuori di testa. Io non credo che le persone che reagiscono con energia diciamo negativa possono essere quelli fuori di testa, perché poi bisogna sempre rapportarsi alle situazioni. Allora, quello che io noto, ripeto, è l'ascolto che manca. Come possiamo noi intervenire in questi centri di igiene mentale che funzionano solo con psicofarmaci, senza l'ascolto, come se fossimo un gregge, cioè omologati, per tutti c'è una stessa cosa. Ognuno di noi ha un mondo interiore che potrebbe essere d'aiuto a tanti, a molti. Come possiamo interagire contro questi colossi, le big pharma, e lo abbiamo visto con i vaccini, apro e chiudo, che io ho litigato col mondo intero nel periodo della pandemia, se mi avessero voluto far fuori lo avrebbero fatto volentieri, ma a me, se lo vedo con le corna, io gliele seguo, quindi non me ne frega un pischello. Allora, come possiamo intervenire noi contro questi colossi? In che modo creare una catena di umanità? Grazie, ma tu mi dissenti. Devo fare anche un intervento, ma è una cosa. Allora, io ho avuto un'esperienza per parecchi anni di collaborazione soprattutto con sensibili alle foglie e mi sono trovata spessissimo a dover leggere e teatralizzare dei testi degli ammalati mentali. Ora c'è stata questa cosa, c'è stata una battaglia che per molto forte, sto parlando di una quindicina di anni fa, per la reintroduzione dell'elettroshock. Allora io credo che in ogni situazione, e proprio mi riaggancio a quello che diceva Marianna, l'unica cosa possibile affinché queste cose, la prima cosa è far comprendere agli altri come funziona la storia, però anche la seconda cosa da fare è cercare di tirare il meglio, visto che nessuno lo fa e non ci sono gli interessi per farli, di creare catene tra virgolette umanizzanti, cioè io non ti lascio solo, non ti lascio sola, ma abbiamo la possibilità anche di discutere di questo disagio. Tu dicevi una cosa che è vera, una volta che ti prendi gli psicofarmaci quotidianamente, alla fine tu sviluppi la dipendenza e insieme con la dipendenza anche molte malattie al fegato, perché poi alla fine, a furia di prendere tutti questi farmaci, se ne parte anche, diciamo, il fisico, non solo la psiche, che posso la stessa cosa. Allora, il disagio esiste l'incapacità, esiste questa forma disumanizzante per cui una persona è solo un prodotto da sfruttare. Cosa si può fare contro di questo? Non è che ci sono soluzioni contro il disagio, vabbè, ma lo faccio così. L'unica soluzione è creare dei punti di solidarietà umanizzante, io la chiamerei così, perché proprio reintrodurre il concetto di perché siamo qui su questa cazza di terra a fare cosa se non gli esseri umani, e questo io voglio dire. E poi c'è stata qualche vittoria, la difficoltà insomma dell'eliminazione dell'elettroshock, che volevano reintrodurre la bellezza di 15 anni fa, non di più, quindi c'era un tentativo di andare anche oltre lo psicofarmaco, quindi reintroducendo l'elettroshock, tra parentesi, con tantissime storie di vita che erano soltanto di poveri che non sapevano, o orfani piccoli che non sapevano dove metterle, così che nasce poi, tra virgolette, quel luogo chiamato manicomio. Nasce proprio da questa cosa, che non sapevano dove mettere queste persone e le rinchiudono chiaramente al disagio. Ognuno risponde con le sue reazioni anche umane, anche la rabbia è la prima delle reazioni in cui tu inizi a comprendere e ti ribelli. Questa rabbia veniva taciuta attraverso queste forme disumanizzanti completamente che potevano essere. Però la battaglia del elettroshock è stata vinta. Ora il discorso di riuscire a far comprendere che questi farmaci non solo non ti producono cura, ma ti annientano anche come persona, che può essere fatto soltanto uno dalla conoscenza di che cosa sono questi farmaci, che cosa producono. Due, comprendere che non curano affatto, ma annientano. E tre, capire, perché io posso anche dire la vita è brutta, sono cattivi e mi fanno questo. Però poi il discorso resta, io contro questo sistema che veramente posso fare? Io posso rilanciare su una sfida che è quella della che attraverso delle collettività di ascolto. A me tutta questa esperienza fatta con Sensibili alle Foglie, perché per anni e anni e anni io sono stata con loro, sono stata negli ospedali psichiatrici, ho lavorato, ho partecipato a dei momenti anche di festa in situazioni anche, e potrei dire le differenze che c'erano tra i vari ospedali. In alcuni gli utenti non uscivano nemmeno, erano veramente annientati, in altri invece questo fatto di trovare sempre la forma della scrittura, la poesia soprattutto, il racconto, scrivere, io ho letto cose loro scritte anche su carta igienica, che non avendo strumenti scrivono queste frasi o questi racconti o queste piccole poesie. Queste cose, nella misura in cui iniziano a viaggiare, colpiscono gli altri, si attenzionano queste cose, perché la repressione è la repressione, ma una repressione, cioè, è sempre stato così, il pazzo è pazzo, quindi nessuno sta sente. Non c'è questa volontà di entrare dentro a questo disagio da parte di nessuno, perché è un elemento di disturbo per quello che deve essere la regolarità di un progetto del capitale, anzi ci troviamo nel post capitale, che è così inglobato e così oggi tutto poggia sulla visibilità e sulla forza e sulla cattiva competizione. Quindi il discorso resta, mettiamo soprattutto in luce il significato di queste cose, però dall'altro lato iniziamo a trovare delle piccole comunità che siano compartecipanti rispetto alle problematiche del disagio, perché il disagio è enorme e molto spesso marcia insieme con la povertà, spesso marcia per questo, no, a volte non è solo la povertà, perché se uno sta male può stare male pure per il problema, però sostanzialmente marcia molto spesso su un disagio economico, su un disagio di incapacità di inserimento, anche perché devi essere competitivo in questa vita, in questa fase in cui il potere diventa il mio potere personale su, non il potere di trasformare, ma il potere su qualcuno, la visibilità, il riconoscimento, cercare sempre questo riconoscimento sull'altro. Allora io credo che su queste tematiche noi ci possiamo fare una riflessione che è anche molto, che va oltre anche lo psicofarmaco e basta. Anche perché qua non si scherza, diventano sempre più forti questi psicofarmaci, facilmente, tra parentesi, trovabili, e quanto più economici sono, più sono alla portata di tutti. E quando una cosa è più alla portata di tutto, iniziamo ad avere dei problemi di fuga dalla realtà e di dipendenza. Questo è un problema fortissimo, per cui molto spesso, anche se per libera scelta, quello che diceva prima Enzo, questo farmaco, che è un farmaco, è un psicofarmaco, veramente ti produce la morte di enormi persone e ti produce anche la dipendenza. Qui ci sono molti problemi da collegare, però noi come possiamo fare, oltre all'ascolto, che già sarebbe una cosa, perché Canisciuno e tutti sono autocentrati, non si riesce veramente a entrare in empatia con gli altri, però l'unica cosa che si può fare è trovare delle comunità di accoglienza rispetto alle nostre fragilità. Questo è molto importante, e andare anche oltre questo discorso, perché è estremamente collegato a un disagio che non è soltanto di carattere esistenziale, ma proprio come rapportarsi in una società del genere, una società in cui il potere è proprio il potere su. Quindi praticamente è una guerra continua di competizione a chi è più bravo, a chi è più capace di avere le palle per poter dire la sua, cioè è una guerra di potere, questo io sento molto. E quando c'è una fragilità, di questa fragilità ce ne si approfitta, per cui se tu levi di mezzo poi l'aspetto anche bello umano, non dell'emozione, no? Chiaramente devi saperle regolare, non possono essere più forti di te, ma anche quelle ci servono per poter godere minimamente di quello che noi chiamiamo la vita. Quindi può essere un discorso molto più ampio, che può svilupparsi e può collegarsi a tantissimi altri discorsi che oggi purtroppo sono proprio cioè nessuno vuole affrontare, perché di parlare della vita è difficile. Noi dobbiamo parlare in termini un po' più accademici per poter riuscire a comunicare con l'altro in una società di visibilità e di potere e di competizione insana. Non è la competizione a chi fa di meglio rispetto all'altro, ma è una competizione sul mio potere, quanto potere io possiedo e come posso usare questo potere per usare gli altri. Allora il discorso è veramente infinito, però iniziamo a metterlo fuori e iniziamo a collegarci a tutte quelle diciamo formule, comunità che in questo momento hanno ancora la sensibilità di accogliere i discorsi sulla fragilità umana e che hanno, riescono a entrare in empatia con quello che significa le varie sfaccettature della nostra vita e le reazioni che abbiamo a tutto quello che ci accade dentro e fuori di noi. Ho finito. C'era Gabriele. Sarò molto breve. Volevo raccontare un'esperienza vissuta al San Giovanni Bosco di Napoli, che non è una struttura di reclusione, un ospedale psichiatrico, dove prima c'era pure il pronto soccorso. Scusate che mi fa male la gola. Aspettate. Era prima del pronto soccorso, adesso non le ho più. Siccome avevo delle allucinazioni fortissime, degli amici riuscirono a salvarmi e a portarmi in questo pronto soccorso. E là praticamente non facevano altro che somministrarci psicofarmaci dalla mattina alla sera, a tal punto che noi dormivamo tutto il tempo e ci venivano a chiamare gli infermieri solo per mangiare, e io restavo in piedi aspettando il caffè, perché fumavo, sono una fumatrice, volevo il caffè. Poi ci mettevamo nel letto perché non avevamo la forza di stare all'impiedi, non c'era un'attività, e quindi questo così passava la giornata. A un certo punto, quando cominciavi a stare meglio, che facevo? Andavo a svegliare le altre ragazze che avevo conosciuto, con cui avevo fatto amicizia, delle ragazze pure straniere dell'est, e le dicevo: dobbiamo svegliarci perché è ora di mangiare, perché a volte non ci svegliavano nemmeno perché era ora di pranzo. le svegliavo, loro non si volevano alzare a letto, io li costringevo ad alzarsi, così almeno mangiavano, e poi si volevano ributtare nel letto perché non avevano la forza. E questa è la mia esperienza di abuso di psicofarmaci che volevo condividere con voi. Grazie. Altri interventi? Luigi è sempre collegato? Eh sì, no, Luigi è collegato, infatti stavo per dire, Luigi, quando vuoi intervenire noi ti sentiamo, eh? Ma è l'importanza di fare un discorso sulla salute mentale, perché il corso è proprio una grande operazione per farmacologizzare il più possibile la popolazione, aumentare i disagi e la risposta farmacologica e anche di potere, perché più farmacologizzati ci sono, più cattedre e psichiatrie si sfornano, più dottorandi ci sono, più convegni, più un giro di soldi anche, quindi del capitalismo neoliberale, di cui l'università è una fiera, è una colonna importante. E quindi però il problema della salute mentale ha una grande portata, infatti adesso i giovani, c'è un picco nella specializzazione dei più giovani. I più giovani lamentano proprio problemi di salute mentale, cioè li lamentano più di tutti gli altri, non rendendosi conto che la psichiatria è sempre più una disciplina di normalizzazione e di securitaria, una disciplina di controllo sociale più che non di cura. Pochi colgono la portata di fare un discorso serio sulla salute mentale e l'equilibrio psichico in questo momento. Purtroppo non è all'agenda della politica, ecco, non è all'ordine del giorno nel grosso della discussione del movimento. Grazie. Ho finito. Grazie. Grazie. Grazie. Bisogna parlare anche al microfono. Vabbè, volevo dire una cosa, che è vero, la comunicazione, i rapporti, eccetera. La cosa vera è drammatica, è un'altra, diciamo, è più profonda, cioè, nel senso che ogni volta che la società ha delle trasformazioni, aumentano i livelli di depressione e di chiusura. Per esempio, la rivoluzione industriale è quella che ha prodotto l'apertura dei carceri e dei manicomi, cioè nel senso che la rivoluzione industriale produceva l'uscita da un circuito lavorativo più umano degli artigiani, eccetera, e costringeva gli esseri umani a legarsi alla catena di montaggio. Questa cosa ha prodotto un dramma nelle società, in maniera particolare in Inghilterra, ma in Europa tutta, producendo poveri e disadattati. A Napoli abbiamo un esempio, il famoso albergo dei poveri, che ci viene raccontato come una cosa illuminante, che qualche monarca illuminata aveva fatto. In realtà l'albergo dei poveri, come molte strutture stanno già in Inghilterra, erano semplicemente dei luoghi dove si raccoglievano i disadattati che non volevano andare a lavorare in fabbrica, cioè gli ex artigiani, i poveri, eccetera. E l'articolo 1 dell'albergo dei poveri era educare i poveri al lavoro, perché i poveri in quanto tali sono pericolosi. Perché parlo della rivoluzione industriale, ma questi che a mo' la vuole fare lunga? Perché sta avvenendo un'altra rivoluzione in questo paese, nel mondo in realtà. La cosiddetta intelligenza artificiale e secondo alcuni produrrà milioni e milioni, 70% della popolazione che sarà inutile, non servirà più. Noi prima parlavamo di forza lavoro, non servirà la forza lavoro, non servirà più. Quindi tutti questi esseri umani, che non sono pochi, secondo alcuni esperti borghesi, non rivoluzionari, si parla del 70% della popolazione, che il 70% della popolazione che si sentirà inutile. Voi pensate a ognuno di noi che si sente inutile. Che tipo di storia si produce? E quindi il manicomio, il carcere, i farmaci alle casalinghe, ai poveri, sono cose normali. Perché i farmaci vengono dati anche nelle case, nelle ricovere per i poveri. Cioè nel senso che il farmaco, insieme alla repressione, sarà sempre più uno strumento, perché questi qua avranno il problema che fine devono fare alcuni miliardi di esseri umani, che non servono più, non serviranno più. Che adesso giustamente ci scandalizziamo i bambini che lavorano nel terzo mondo. Questi stanno costruendo un'intelligenza artificiale, che queste cose saranno risolte, secondo loro. E come sempre, no, la tecnologia non è a servizio dell'umanità, della sua trasformazione, ma è a servizio dei poteri. E quindi questa cosa che poteva essere una cosa interessante, positiva, no, nel senso, vabbè, non vado più a lavorare nella miniera perché l'intelligenza artificiale porterà una macchina, quindi non morirò più sotto la miniera. Che è interessante, no? Però poi dopo il minatore che fine fa? L'infermiere che fine farà? L'autista dei pullman che fine farà? Addirittura i medici che fine faranno? Già hanno iniziato la medicina robotica. E quindi questo è un problema. Cioè, vede tutto l'aspetto umano, dei rapporti umani. Io sono convinto che queste cose vanno affrontate costruendo dei piccoli posti come questi, comunità di resistenza, dove parliamo delle nostre difficoltà di vita e del nostro sentirci molto spesso non utile. Perché 10 ore vicino a una catena di montaggio è una cosa orribile, però ti faceva sentire utile, perché portava lo stipendio a casa. Sotto una miniera era un lavoro orribile, però ti faceva sentire utile. Il fatto che tu, che è un termine che usa uno studioso israeliano, professore all'Università di Gerusalemme, che dice: il problema sarà che tutte queste persone non serviranno più. Addirittura l'ultimo convegno dei ricchi fatto a Davos, 30 ricchi hanno fatto un documento dove parlavano, cosa che dovremmo parlare noi, il diritto al reddito, perché dicevano: ma tutte queste persone che cazzo di fine faranno? E la soluzione sono i manicomi, i carceri e le periferie del mondo. Quindi questo problema va di là della questione puramente umana, che è importante, ma è un meccanismo. Se uno si legge, si ha letto la storia della rivoluzione industriale, capirà i danni di questa cosa. Però questa cosa gli scoppierà fra le mani, perché questa volta parliamo non di migliaia di artigiani che non volevano la fabbrica, ma parliamo del 70% dell'umanità che non sarà più utile. Forse sono andato fuori, però allora, sentire tutti questi ragionamenti mi ha fatto venire in mente un paio di cose. Allora, io quella frase che abbiamo scritto nel documento delle Mattarelle la tengo impressa nel cervello, perché per me è la pura verità. Cioè, oggi la merce sei tu. E la merce sei tu, nel senso che la differenza tra gli anni di cui parlava Raffaele e il mondo odierno è che all'epoca era semplicemente invisibilizzare, nascondere delle persone che non erano più produttività. Adesso hanno trovato una soluzione rivoluzionaria, perché appunto il sistema capitalistico è perfetto, che anche le persone improduttive producono. Che stai facendo? Non lo so. Il telefonino mi Eh no, ma il telefonino è qua da sempre. No, no, si è ferma. Solo lui che volevo dire qualcosa. Hai qualcosa che è accaduto? No, la connessione c'è. No connection, dici, oh madonna. No connection, il wifi. Luigi, ci sei? Sì, ci sono. Ah, a posto, okay, scusa. Pensavamo di aver perso il segnale. Allora, questa cosa mentre parlavamo mi è venuto in mente proprio questo, che subito dopo la pandemia in televisione è cominciata a passare questa pubblicità di questo farmaco Lila per stare meno stressati, per dormire meglio, cioè la normalizzazione dello psicofarmaco nel progetto, che è un progetto in cui alla fine nessuno di noi servirà lavorativamente, ma non diventeremo soggetti improduttivi, perché produrremo lo stesso con il nostro malessere, perché diventeremo merce noi stessi con il nostro malessere, malessere generalizzato. La sperimentazione carceraria, la sperimentazione reclusiva, è una sperimentazione che, come diceva bene Margherita, vuole essere portata fuori, cioè quello è il luogo in cui loro sperimentano le metodologie di repressione. La pandemia è stato un primo grande esperimento sociale, dopo il quale ne siamo usciti con la pubblicità della Lila in televisione, ne siamo usciti con i ragazzi nelle scuole già sottoposti a farmaci, non lo so come si dice in italiano, sottoposti a farmaci, perché iperattivi, perché ragazzi, perché vivi. Il problema che oggi dà fastidio è che noi siamo vivi, che noi siamo qua, che noi pensiamo. Quindi il problema, scusami il napoletano Luigi, il problema è secondo me molto comunitario, molto, perché noi stiamo parlando di combattere un colosso quale il capitalismo, che è perfetto ed è imbattibile. Non possiamo fare altro di scardinare gli ingranaggi, rompere gli ingranaggi passo passo, in piccoli passi rivoluzionari, che mi fanno capire che io, nonostante sono un'operaia sfruttata, non ho bisogno di Lila per dormire, non ho bisogno di Lila per dormire, perché faccio una telefonata alla mia compagna fino a che non mi addormento se sono stressata da un sistema che mi disumanizza, che non mi rende felice, ed è questo che mi rende un soggetto psicologicamente fragile, è l'inumanità di questo mondo, il mio non sentirmi al mio posto in questo mondo, perché qui tutto è solo un sistema economico e la mia umanità viene assolutamente invisibilizzata. Oggi abbiamo un problema con i giovani non indifferente, oggi abbiamo una sofferenza psichica da parte della componente adolescenziale altissima, abbiamo l'80% dei giovani in depressione, in chiusura, come si chiama, in kikimori, ragazzi che decidono di non uscire più dalle loro case, quindi la libera scelta, un cavolo, la libera scelta viene da quello che hanno studiato nei luoghi di detenzione, che ci hanno portato oggi anche nei luoghi aperti, facendo in modo che noi ci mettiamo in detenzione da soli. Quindi l'unica risposta è continuare a costruire comunità, secondo me, e affrontare i temi e a schiattare in faccia la verità a chi si sente solo e non sa come cavolo uscirne da questo cazzo di situazione in cui galleggiamo tutti nella merda. Questa è la verità. Chiudo. Allora, io mentre parlava Raffaele, ma anche mentre parlava Marinella, ho fatto un volo pindarico, come ogni tanto succede. E ho riflettuto in realtà sul fatto che a livello d'analisi politica, cioè, tutto quello che è stato detto qua è stato giusto, tutto quello che è stato scritto è stato assolutamente giusto, però rifletto su quella che è la mia formazione politica, no? Io nasco come attivista queer transfemminista, quindi assolutamente mi sono letta e riletta Foucault dall'inizio alla fine, e anche, diciamo, persone che hanno superato Foucault all'interno di quella che è la teoria queer, dove si parla appunto di biopolitica, quindi di della normalizzazione, cioè di un passaggio da dove lo Stato elimina fisicamente, quindi da quella che è definita come la tanatopolitica, l'arte di impartire la morte, no, da parte dello Stato, a diciamo categorie di persone che o non sono produttive o sono scomode, eccetera eccetera, dissidenti e quant'altro, a quella che invece è un'arte appunto della normalizzazione, no, di queste persone. Io rifletto invece adesso sulla morte, cioè nel senso che all'interno, a tanto di quello che è stato il capitalismo industriale, i manicomi per esempio erano luoghi di morte, e appunto questa tanatopolitica, quindi la volontà dello Stato di impartire la morte su delle persone che nel capitalismo industriale non erano produttive, quindi non servivano, no? Come penso che questa cosa esista anche ora, cioè nel senso che esiste per molte persone nel mondo, chiaramente uscendo dall'Occidente, ma esiste anche qua. Chiaramente quando parlo di morte, ovviamente, non lo so, venerdì prossimo presentiamo la storia d'Antonia, il primo capitolo si chiama Morta di classe, no? Ok. All'interno di questo chiaramente la morte è quella dei poveri. E penso che anche, cioè, il fatto di della somministrazione forzata degli psicofarmaci in determinati luoghi, che siano definiti come luoghi di reclusione o che siano definiti come luoghi terapeutici, che però sono luoghi di reclusione, abbassando notevolmente le aspettative di vita, perché, cioè, inevitabilmente crea dei problemi di salute che poi portano all'abbassamento dell'aspettativa di vita, cioè questa è una pratica proprio di gestione della morte, non di gestione della vita. E questo c'è sempre stato, cioè, mentre parlava Raffaele pensavo a mia nonna, no? Mia nonna analfabeta, mondina, a 40 anni, quindi quelli che io compio venerdì prossimo, mia nonna aveva già un sacco di malattie connesse con la sua classe, no? Con la classe d'appartenenza. Penso che anche adesso, all'interno di quelle che sono appunto le classi definite non abbienti, quindi la povertà, il precariato, eccetera, eccetera, no? Quelle che più finiscono all'interno della crisi, che conseguentemente viene poi psichiatrizzata sotto una ricattabilità che o ti pigli farmaci o ti facciamo il TSO e finisci in repartino, o dietro un repartino via l'altro, eccetera eccetera, persone appunto senza dimora, che sappiamo bene in che circuiti istituzionali finiscono, eccetera eccetera. Penso che questa sia una pratica di morte, perché impartendo questa obbligatorietà di questa somministrazione così pesante, così quotidiana, così assolutamente immanente per anni, quello che succede è che tu stai uccidendo una persona, ma lo fai con un calcolo ben visto, e fra l'altro capitalizzandone gli effetti, cioè nel senso che tu questa persona la mantieni in vita uccidendola, perché comunque in questo modo ci guadagnano i colossi. Questo. Io sono d'accordissimo con alcuni discorsi. Io credo che se noi ci mettiamo di fronte al potere, ci sembra come se volessi spostare una montagna e poi non so manco, che ne so, spostare un bicchiere, non ce ne ho la forza. Allora io mi domando cosa possiamo fare, perché se è un problema che hanno creato gli uomini lo possono risolvere. Allora il discorso mio, ecco, con le mie forze, con la mia capacità, posso mai impedire all'improvviso, io da sola con 10 persone, no? Al massimo 15, 20, quelle che possono essere di una cosa. Allora io credo che dobbiamo funzionare come variabili, tra virgolette, impazzite. La nostra forza sta solo nel riuscire a parlare tra di noi, agire tra di noi. Agire significa far passare questi argomenti e fare tra di noi una rivoluzione, che appunto quello che diceva Margherita. Ora, anche quello che diceva Raffaele, cioè il progetto è quello che alcune persone possono essere, come diceva Raffaele, il 70%, no? Delle persone che devono essere tolte di mezzo. Però io che potere ho rispetto a questo progetto di morte? L'unico potere che ho, posso funzionare attraverso un'opera di comunicazione, di empatia con tante altre persone che hanno la stessa sensibilità, passarlo ancora ad altre persone ed essere sempre più persone, tra virgolette, umanizzate in un sistema disumanizzato. Ed è questa l'unica mia capacità, perché è l'unica rivoluzione che posso fare, quella umana. Reagire al disumano, reagire alla morte, posso reagire con la vita. Non posso reagire con un sistema di morte o solo di cazzatura che poi non leva e non mette. Abbiamo detto tutti i mali del mondo, che ce ne importa. Lo sappiamo che il mondo è sporco e cattivo e che il capitalismo fa schifo, che la robotizzazione ci toglierà di mezzo come essere umano, a tanto vali, ma ci è venuto là perché non ha tenga forza. Ma qual è la mia forza? La mia forza è di ricostruire 3.000 variabili, tra virgolette, impazzite di vita. È l'unica forza che ho, non ne ho altre, perché se io parlo della montagna che devo salire, scalare, e non ho la forza di fare un passo poi nel mio quotidiano, 3.000 quotidiani, 100.000 quotidiani, miliardi di quotidiani che si muovono in questa maniera, finché queste problematiche escano fuori, ed escono fuori con un discorso anche più approfondito, che sicuramente non è da una parte solo politico o solo umano, non come se poi fossero contrapposte le due cose. Io sono per una politica umanizzante, non può essere la politica disumana, no? In effetti ce l'abbiamo addosso e produce quello che vediamo. Quindi io credo che l'unico sistema è creare queste comunità resistenti a questo discorso disumanizzante che tende all'annientamento, alla repressione, ma anche all'annientamento, e quindi anche riuscire a tenere la tua testimonianza, Luigi, come le testimonianze che abbiamo avuto le volte scorse, ci permette di entrare in una dimensione che ha lo sguardo più aperto e ci permette di sviluppare quella cazzo di empatia che mai come adesso è diventata nulla e si vive solo nel desolamento o solo nel dire la società è sporca, cattiva e va fuori. Allora io non mi caggia fa, non posso fare niente, aspetto che muoia, punto. Allora se permetti preferisco morire combattendo, perché mi sentirò viva in questa battaglia, ed è questa l'unica forza che ho in questo momento. Ma quando questa mia forza sarà passata a livello di testimone a 3.000 altre persone, che a loro volta passeranno questo testimone ad altre persone, si diventerà una forza. Qualcosa succederà, mi amma ci muoverà l'acqua. Se non ci muoviamo niente, dicendo solo tutti i mali del mondo, e ci blocchiamo qua, amma fornute ricera, lo sappiamo, ci sono genocidi, ci sono guerre, c'è di tutto, c'è l'atomica, c'è di tutto, non è questo, però rispetto a tutto questo, io che posso fare? Il problema, io dico, l'hanno creato gli uomini lo possono risolvere, io sono la nonna. E come tale mi pongo rispetto a questa realtà, almeno la faccio girare tra di noi. Questo confronto ci permette di sviluppare altre idee e molto probabilmente non le possiamo sapere in partenza, perché non è quello che io immagino che sia, né quello che dici tu più quello che dico io, ma è una terza via che ancora non c'è, perché è una via creativa. È una via creativa perché non la conosciamo in questo momento, ma la stiamo mettendo in atto, e qualcosa succederà per poter frenare. Se no, ho perso in partenza, che cazzo parlo a fare? Allora è quello il discorso, parlo tanto per lamentare. Allora non è questo il discorso è creare questa terza via, una via di cui noi non ne siamo in partenza già capaci di riconoscere, perché non c'è ancora, non l'abbiamo ancora costruita. E questi sono gli strumenti che ho, non ne ho altri. Vabbè, era questo che volevo aggiungere. Luigi vuoi intervenire in chiusura? Ma gli strumenti, sicuramente creare comunità è utile, perché c'è stato un decremento, una diminuzione della solidarietà nel corso del Novecento. Nel corso del Novecento cambia la famiglia, cambiano le familiari, si indeboliscono e la solidarietà umana viene meno. Adesso effettivamente viviamo in un tessuto sociale degradato, siamo tutti singoli, isolati, competitivi gli uni con gli altri. Ricostruire la comunità solidale è sicuramente importante. Come farlo? Beh, si potrebbe anche passare dall'università, passare attraverso un momento di cultura, creare cultura, raccogliere le testimonianze. Io adesso sto cercando di scrivere un libro in cui riporto il mio vissuto, raccogliere le testimonianze di chi ha transitato questi territori, fare dei giornali, parlare all'università, mettersi in contatto con gli studenti universitari. L'università è diventata un territorio della destra, si credono privilegiati gli studenti universitari, forse probabilmente lo sono, però è possibile costruirci un dialogo. Possibile costruire un dialogo con gli studenti medi, possibile commuovere gruppi di auto mutuo aiuto tra i pazienti psichiatrici, cioè le possibilità. Si può fare un giornale tipo organizzazione Liberiamoci dalle galere e indirizzato ai problemi psichiatrici, proprio per creare un collegamento. Si può potenziare la rete nazionale antipsichiatrica, collegare la lotta anticarceraria a quella antipsichiatrica. Cioè, le vie possibili sono tante in cui attuare la ricostruzione delle comunità solidali. Quindi credo che l'importante sia mettersi in marcia e continuare a lottare, perché questo dà un senso alla nostra vita. Certo. Grazie da tutti. Lui, hai finito? Sì. Ok, allora Ok, allora, come sempre è stata un'assemblea incredibilmente interessante. Da parte delle Mattarelle di Santa Fede ringraziamo Luigi e ringraziamo tutte le persone qui presenti, chiaramente. Sì, allora io mi rimane qualcosa da dire, ma non la dirò stasera, ok, perché altrimenti non finiamo più. Sì, il nostro progetto Luigi e anche delle persone nuove che vedo qua di fianco è, non lo so, quello di creare questa comunità in cui appunto il malessere, in cui appunto le persone che attraversano anche, diciamo, l'esperienza della psichiatria a vari livelli abbiano assolutamente voce e pertinenza, perché un grande problema dei movimenti politici di solito è anche quello. Adesso non nascondiamo la polvere sotto il tappeto. C'è uno sbarramento molto spesso, in realtà lo sto dicendo quello che volevo dire, vabbè. C'è uno sbarramento molto spesso nei movimenti politici, tanto nel misto quanto nel femminismo, purtroppo, che è quello appunto della salute mentale, interessa molto il tema, ma c'è una assolutamente crisi della presenza, nel senso che poi se sei pazza, sei pazzo e conseguentemente attui concorde a come sei, no? Non va bene. All'interno di questo però sì, diciamo, questo nostro iniziare a camminare è proprio volto a questo, costruire questa comunità, oltre che iniziative in cui ci sia la divulgazione di determinati contenuti, divulgazione ma anche riflessione. È proprio questo. E una città come Napoli ancora permette questo, altre città purtroppo non lo permettono più. Quella era un'altra cosa che volevo dire, che a Napoli siamo in un contesto in cui ancora è possibile fare questo, perché ci sono spazi sociali aperti, perché c'è ancora una solidarietà dal basso che proprio si crea. Altre città sono state completamente gentrificate, conseguentemente tutti gli spazi sono stati sgomberati, si occupa e assolutamente lo sgombero avviene 3 giorni dopo, quindi c'è un'impossibilità proprio materiale di fare questo. Con la gentrificazione appunto le fasce più povere della popolazione vengono sparse nelle periferie, si polverizzano i legami comunitari, si polverizza la solidarietà, insomma tutto un sistema che conosciamo ed è un tamponamento a catena. Però noi siamo a Napoli fortunatamente, quindi vedremo di farcela. Grazie mille. Vuoi dire qualcosa anche tu in chiusura? No, vabbè, volevo salutare Luigi, ringraziarlo per il tempo passato con noi e sperando di poterci risentire al più presto. Luigi. Grazie. Questa è un'occasione che mi date, perché sono totalmente isolato, non mi lasciano uscire, sono in una normale comunità psichiatrica a media intensità, però non mi lasciano uscire, quindi poter avere contatti con voi con i collettivi tramite telefono è l'unico modo che ho per avere una vita sociale. Lo faremo sempre. Grazie mille. Quando, cioè, se ti danno il permesso, ogni assemblea delle Mattarelle tu sei invitato. A proposito, facci leggere il tuo libro, noi lo stiamo aspettando, deve essere bellissimo. Forza Luigi, che ci siamo. Un bacione grande grande. Ciao. A tutti, grazie. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ciao Luigi. Ciao. Ah. Vabbè, lui, cioè, hanno fatto stare un sacco di tempo a telefono. Abbiamo chiuso? Vabbè, io da quando sono partito io. Questi problemi, cioè, sono un po' voglia, ogni tanto sì. Da quando sono partito io. Ah, stiamo